per sanzionare la Russia rispetto alla guerra in Ucraina stiamo cercando fornitori alternativi. Ferdinando, tu hai mappato quelli con cui l'Italia sta stringendo degli accordi. Che cosa ne esce fuori? Che prima di mapparli io per domani li aveva mappati Eni per il governo italiano, perché per la, diciamo, il tentativo di affrancarci dall'acquisto forzato del gas russo e disintossicarci e smettere di partecipare finanziariamente a questa guerra sul fronte russo comprando il gas e il petrolio, stiamo ripercorrendo la mappa degli investimenti di Eni soprattutto in Africa. Quindi stiamo, diciamo, seguendo il lavoro che è stato fatto dalla partecipata pubblica in paesi come il Congo, l'Angola, il Mozambico, l'Algeria, e il riflesso è stato veramente immediato. In questo momento la politica energetica del governo la sta facendo Eni, lo abbiamo visto poco dopo lo scoppio della guerra. Il primo riflesso è stato Descalzi, amministratore delegato dell'Eni, e Di Maio, ministro degli esteri, in Algeria a chiedere gas. Quindi diciamo che in questo momento Descalzi ha preso per mano il governo italiano e lo sta portando lì dove ci sono operazioni Eni. Allora, questo è un po' il quadro generale. Andiamo un po' in questi paesi, in ordine alfabetico. Il primo è l'Angola. Ecco, cosa possiamo dire di questo nostro nuovo fornitore? Cosa possiamo dire di questo nuovo nostro fornitore? Paese, diciamo, autocratico, e questo è un problema che hanno tutti i nostri nuovi fornitori, nel senso che se noi facciamo una questione morale, oltre che geopolitica, dell'abbandonare la Russia, ci stiamo mettendo nelle mani di altri paesi estremamente problematici, anche se probabilmente su una scala minore, ma poi chi lo sa. È un paese che ha una guerra civile interna a bassa intensità di cui non si parla mai, con una regione che si chiama Cabinda, che è un exclave, quindi è un pezzo di Angola fuori dall'Angola, che da anni prova attraverso una guerriglia armata a diventare indipendente. È uno, diciamo, dei vettori di questa ricerca di indipendenza è proprio il gas, perché è una delle regioni dove si estrae più gas in Angola. Poi l'Angola è uno storico paese dell'OPEC in Africa, è uno dei principali produttori di combustibili fossili, ed è una cosa che lì ha cementato, diciamo, il blocco di potere che ha il governo, che era il movimento guerrigliero dell'indipendenza, che peraltro, come ultima informazione e secondo me interessante, è legatissimo alla Russia, era legatissimo all'Unione Sovietica, è tuttora legato alla Russia, che forma i militari, che ha rapporti strettissimi con l'elite politica. Quindi, diciamo, e questo lo vedremo poi in diversi paesi, provi ad allontanarsi dalla Russia e trovi la Russia. E il rischio di finanziare una situazione problematica, per usare un eufemismo, l'abbiamo anche in Congo? L'abbiamo anche in Congo Brazzaville, quindi la Repubblica del Congo, dove anche lì c'è lo stesso presidente al potere praticamente dagli anni 70, un paese che rispetto ad altri ha meno questioni geopolitiche, non ha una guerra civile in corso, anzi è un paese che accoglie profughi da altri paesi, diciamo, dell'Africa, però è di fatto una dittatura, un'autocrazia molto forte, non so dove si pone il confine, e anche lì andiamo a finanziare un governo che molto problematico dal punto di vista dei diritti umani e del funzionamento democratico. Quindi è una sessione un po' parallela all'Angola, ma più piccola dal punto di vista della fornitura e senza una guerra civile in atto. E spostandoci un po' sulla cartina, leggermente più presentabile. E spostandoci un po' sulla cartina, poi c'è il Mozambico. Mozambico molto meno presentabile, nel senso, Mozambico è situazione veramente drammatica, perché è diventato negli ultimi anni uno dei paesi più violenti e pericolosi dell'Africa, ed è uno degli ultimi avamposti dello Stato Islamico, e anche lì questa situazione è triggerata dal petrolio e dal gas nella regione nord del paese, che è la regione dove ci sono anche scontri più violenti fra il governo centrale e i salafiti, proprio per il controllo di queste risorse, perché c'è un enorme discontento da quelle parti, su cui poi storicamente gli estremisti islamici hanno una grande capacità di intervenire e lucrare, perché questa estrazione che in Mozambico va avanti da decenni, peraltro con anche di grandissima partnership russa, perché una delle aziende più attive è l'azienda di Stato petrolifera Rosneft, e appunto i proventi non rimangono sul territorio, che è una delle parti più povere del paese, enorme corruzione e quindi infezione della violenza. Quindi è un paese molto instabile. Noi ci stiamo convincendo che stiamo abbandonando l'instabilità russa per andare da paesi, diciamo, stabili e prevedibili. Mozambico è l'esempio ideale per capire che sono paesi estremamente problematici, che rischiano di crollare nel caos e quindi dover interrompere le forniture in brevissimo tempo. Due paesi che sono già nostri fornitori, dai quali programmiamo di importare ancora più combustibili fossili, che però normalmente sono citati come esempio di fornitori stabili, sono l'Algeria, sempre in Africa, e l'Azerbaigian. Lo sono davvero? Hanno contese geopolitiche aperte? Rischiamo di finanziare qualcosa che potrebbe non piacerci in questi paesi? Sì, nel senso sono paesi che hanno dimostrato un'affidabilità nei confronti dell'Italia, è vero. L'Algeria diventerà il primo fornitore, al regime diventerà il primo fornitore di gas per l'Italia. È un paese che però ha una cronica situazione geopolitica della quale ci siamo completamente dimenticati. Tra l'altro è una situazione che conosco bene perché ci sono stato, che è il Sahara occidentale, che, per fare una sintesi estremamente brutale, sono come i curdi o i palestinesi d'Africa. Sono un popolo che è rimasto senza Stato a causa di una ricolonizzazione interna del Marocco, che ha occupato il loro territorio, li ha cacciati dopo una guerra terrificante nel deserto durata 15 anni nel disinteresse generale, e li ha abbandonati a centinaia di migliaia profughi sul suolo algerino. E quindi l'Algeria da tempo prova a risolvere questa controversia che ha col Marocco, perché questa è una guerra che potrebbe scoppiare da un momento all'altro fra due grossi paesi del Nord Africa, Algeria e Marocco, che coinvolge anche la Spagna, perché la Spagna è l'ex paese coloniale del Sahara occidentale, infatti lì si parla spagnolo oltre che arabo. E perché ci riguarda? Perché noi dobbiamo capire che Putin è come se avesse scritto un libretto delle regole su come usare le fonti fossili per risolvere i problemi geopolitici. E poi quel libretto è a disposizione di tutti, open source, e l'Algeria ha già dimostrato che potrebbe usarlo, potrebbe usarlo, e lo sta usando nella contesa non con l'Italia ma con la Spagna, che a oggi è il suo principale acquirente di gas e che proprio di recente ha cambiato la sua politica sul Sahara occidentale, spostando il proprio peso, come lo si cambia da una gamba all'altra, dall'Algeria al Marocco. E questo l'Algeria ha già fatto, diciamo, sapere che potrebbe ridurre le forniture di gas alla Spagna, lo ha detto con più o meno con un pretesto, ha detto le ridurremo se voi le rivenderete a soggetti terzi, ma sostanzialmente era un modo per dire se non fate quello che diciamo noi, se non siete dalla nostra parte sulla questione del Sahara occidentale e dei Sahrawi, noi possiamo usare il gas come leva. Quindi questo, diciamo, è una cosa alla quale assisteremo sempre di più nei prossimi anni, perché siamo sempre vulnerabili, ormai questa vulnerabilità è aperta, è scoperta, è nota. Azerbaijan sì, paese stabile, ma ricordiamoci che nel 2020, guerra in Azerbaijan con l'Armenia per l'enclave del Nagorno-Karabakh, quindi è una guerra che è data soltanto 2 anni fa e che comunque l'Azerbaijan si è potuto permettere di fare grazie alla sua vendita di fonti fossili, quindi torniamo sempre lì. In un tuo articolo recente su Domani, in cui facevi un po' questo viaggio che stiamo ripercorrendo ora fra i fornitori vecchi e nuovi dell'Italia, finivi con alcune parole su due paesi ben diversi a quelli che abbiamo trattato finora, il Qatar e gli Stati Uniti. Cosa importiamo da loro? Quali sono le problematiche? Sul Qatar e sugli Stati Uniti sono due discorsi diversi. Il Qatar oggi il Qatar ci sembra il posto più stabile e affidabile al mondo, per certi versi lo è. Noi dal Qatar compriamo gas naturale liquefatto, è peraltro il terzo produttore di gas al mondo. Un paese che è diventato sempre più centrale, ma vuoi per la Coppa del Mondo di calcio che sta per organizzare, vuoi perché in Qatar si sono svolti negoziati di pace per l'Afghanistan, per la guerra civile in Afghanistan, ma fino a pochissimi anni fa il Qatar era stato protagonista della guerra fredda del Golfo, di un embargo durissimo, estremamente aggressivo, portato da, dagli altri paesi del Golfo Persico, soprattutto Arabia Saudita ed Emirati Arabi e Bahrain, per accuse di terrorismo e sostegno all'Iran. Ma al di là delle accuse, era stata una situazione geopolitica estremamente problematica. Praticamente il Qatar era stato tagliato fuori fisicamente e geopoliticamente dalla sua regione, quindi anche il Qatar ha, diciamo, i suoi problemi di instabilità geopolitica, e sono problemi recenti, non sono storie di 30 anni fa. Ultima questione, il Qatar è un disastro per i diritti umani e purtroppo è un disastro sul quale faremo molta fatica a chiudere gli occhi, proprio perché a novembre inizia la Coppa del Mondo di calcio e sarà un faro su quello che succede in Qatar. Saremo, appunto, noi non occupandocene nemmeno per motivi calcistici, ce ne occuperemo tantissimo per motivi di diritti umani. Quella stessa Coppa del Mondo di calcio è costata migliaia di morti di lavoratori in condizioni totalmente disumane, quindi non è un paese, diciamo, di cui rapporti andare fieri, ecco. Gli Stati Uniti in questo momento sono il nostro fornitore di emergenza, con tutto l'interesse per farlo, grazie al fracking, quindi alla fratturazione idraulica delle rocce, che peraltro è una cosa ecologicamente devastante. Gli americani sono diventati il primo produttore al mondo di gas naturale liquefatto, e che in questo momento stanno vendendo a noi, stanno vendendo all'Europa, proprio per accelerare questa disintossicazione dalla Russia. Un terzo circa dei piani di eliminazione del gas russo prevede questa importazione attraverso navi metaniere, quindi il gas viene trasformato da gassoso a liquido e poi rigassificato. Infatti tutti i paesi europei stanno correndo a comprare o costruire terminal di rigassificazione, ed è dal punto di vista climatico il GNL più impattante del gas che arriva attraverso il gasdotto, quindi è un'altra questione che a un certo punto ci dovremmo porre, 2,5 volte più impattante. Sul Qatar qualcuno, quando siamo stati eliminati dalla Coppa del Mondo, ha detto con ironia: vabbè, almeno stiamo boicottando il mondiale costruito con gli schiavi, esatto, del Qatar. Esatto. Ascolta, stiamo facendo la cosa giusta, non so se era volontario, ma facciamo finta di... Vogliamo pensare che lo fosse. Ascolta, ti chiedo, nell'anno appena passato, nel 2021, abbiamo visto l'annuncio di alcuni target, di alcuni obiettivi particolarmente ambiziosi dal punto di vista climatico. A livello europeo il net zero, no? Le emissioni nette zero entro il 2050, a livello globale gli accordi presi a COP26. Ecco, fino ad ora ci siamo concentrati sui rischi geopolitici e a livello di diritti umani di questi accordi, ma ci sono dei rischi a livello ambientale? Cioè, stiamo andando verso dei passi indietro? Difficile da dire, probabilmente sì. È difficile da leggere l'esito di questa, diciamo, di tutta la conseguenza della guerra in Ucraina sulla transizione energetica, perché da un lato potrebbe accelerarla, tutti i motivi per accelerarla, dall'altro rischia di incastrarci ancora di più nella nostra dipendenza dalle fonti fossili. Il ruolo del gas in questo è davvero ambiguo, perché noi sappiamo che noi il gas non possiamo smettere di consumarlo quest'anno o anche nel corso dei prossimi anni. Il gas rimarrà parte del nostro mix energetico. Il punto è che noi sappiamo, facendo proprio l'esempio dell'Italia, che è il paese che abbiamo più vicino, tutti gli elementi della transizione. Quindi il gas, le fonti rinnovabili di energia, quindi eolico e solare, che sono quelle che possono crescere, mentre l'idroelettrico è quello che è e basta, anzi tenderà a diminuire a causa dei problemi idrici, il risparmio e l'efficienza energetica. Il punto è l'ordine di questi elementi, a quale elementi dare la priorità, perché il gas è una cosa che noi piano piano dobbiamo andare ad abbandonare, perché è un'energia fossile come le altre, anche se meno impattante, e ha tutta una serie di problemi geopolitici e climatici, per cui il mondo verso il quale stiamo andando, l'Europa verso la quale stiamo andando, net zero, è un'Europa senza gas, è un'Italia senza gas. Il riflesso che vediamo in come l'Italia sta operando in questa crisi energetica è il gas al primo posto, e non abbiamo nessuna intenzione di abbandonarlo né questo decennio né nei prossimi decenni. È questo quello che si legge dal comportamento dell'Italia, per cui nuovi contratti, che sono contratti a lungo termine, che si impegnano, nuove infrastrutture, pensiamo alla rigassificazione, ma si sta parlando anche con grande scioltezza di nuovi gasdotti. Qualcuno ha detto che, a differenza del petrolio, che è un fidanzamento, il gas è un matrimonio, perché il gas, proprio per essere trasportato, ha bisogno ancor più del petrolio di infrastrutture molto hard, che poi diventano i cosiddetti grandi asset. Cioè tu le costruisci o le ammortizzi, quindi le usi per 30 anni, ma allora ci stiamo sposando col gas, o le abbandoni e hai buttato miliardi di euro. Quindi l'ordine degli elementi è decisivo in questo momento. Le fonti rinnovabili di energia, così come il risparmio energetico, sembrano ancora piuttosto in basso. Quello che servirebbe, ma a parere mio, è trattare davvero il passaggio alle fonti rinnovabili come abbiamo trattato la campagna di vaccinazione, con lo stesso livello di urgenza, con lo stesso livello di va fatto ora, va fatto subito, ne va della nostra vita, e quindi fare una cosa che sembrava impensabile, fare la campagna di vaccinazione che ha fatto l'Italia. A un certo punto sembrava impensabile riuscire a vaccinare 500.000 persone al giorno per un anno, e poi l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto con tutti i problemi del caso, e l'abbiamo fatto perché c'è stata una volontà politica di dire: questa è la cosa numero uno, non c'è niente di più importante di questo. Se facessimo la stessa cosa con le rinnovabili, non usciremmo dal gas o dal gas russo quest'anno o l'anno prossimo, ma sicuramente getteremmo le basi per fare a meno di questa fonte di energia. Al momento invece siamo ancora molto vicini al business as usual che conosciamo, quindi grandi blocchi, problemi autorizzativi. Ci sono dei piccoli segnali di speranza, diamo i segnali di speranza. Ha aperto in Italia, di fronte a Taranto, il primo parco eolico offshore, che è una risorsa importante, uno strumento, diciamo, che può produrre molte rinnovabili, e in uno spazio che è a nostra disposizione da usare, che è il mare. Però ci sono altrettanti progetti bloccati di eolico offshore in Italia, quindi anche lì mixed feelings. Però diciamo che in questo momento non si è ancora dato in Italia la priorità alle fonti rinnovabili di energia, e si sta scegliendo l'idea di sostituire gas con altro gas in un rapporto 1-1, senza voler minimamente smettere di consumare gas. Questa è la verità. Grazie mille, Ferdinando Cotugno.